si chiama La Superstar 3009, quello già esce bene. Ma io non c'ho spazio, capito? Dove me lo metto? Va bene così. Già non c'è più nessuno, come metto a spendere i soldi così, ma anche no. Suppalta che non sei più entrato. Suppaltato, non sei più entrato. Ma sono andato quando, forse un mese fa, sempre offese, su le rumore, sempre offese, ma per carità, sempre offendiamo, tutto l'anno così stanno, tutto l'anno, e sono anni, tu pensa, quel mio nick è stato creato nel 2008, cazzo, sempre così sono, sempre. Aspetta, non ho capito, ripeti? Stavo dicendo, sono ancora validi. Sono validi? I piccoli paltocchi che sono stati fatti in quel periodo sono ancora validi? Sì, sì, certo, il mio sì, sì. È che l'altra volta non mi ricordavo la password del mio principale, del micro principale, diciamo, quello che usavo quando c'eri tu. E poi mi sono messo piano piano e facendo memoria mi sono ricordato e sono riuscito a entrare. Sì, sì, è certo che sono validi. Però mi stavano dicendo che se non lo colori te lo bloccano. È per quello, difatti che erano bloccati. Ma comunque mi fa entrare. Vabbè, ma tu eri sempre colorato. Io ero sempre colorato, va. quando me lo regalavano ero colorato. La romana, non l'hai più vista. No, ma cosa romana? Ma non me ne hai mai regalato lì a me. No, chi l'ha più vista? No, Civita Vecchia. Ah, perché lei diciamo che era lì a Roma, non ho capito, era. Ah no, ha sempre detto che era Civita Vecchia, cosa Roma? Beh, l'accento romano, ovvio. Vediamo un po', Daniele. Ma tu lo senti a Daniele? Daniele, mi sa che dovresti sollevarla con l'antenna. Ma dovresti sollevare con l'antenna perché non ti sente. Ora, però questa radio fa da 25 mega e arriva a 28 e più, arriva a 28.755. Comunque se non ci fosse stata un po' di propagazione magari l'avrei anche sentito da dietro. Ma se cambiamo frequenza, mandiamo magari un canale dove non c'è meno QRM. Provate in FM, dai. In FM esce molto molto meglio, cazzo. È ancora più forte la radio. Sì, ti sento, tu mi senti? Anche qua c'è il QRM, vabbè. Cioè, è disturbata comunque la frequenza. Ma è più forte la radio, Daniele, molto molto più forte. Sì, fa un passaggio Daniele, dai, ti registro e te la mando su WhatsApp, vai. Dai, te l'ho mandata. Hai visto, arrivi bene Daniele. Guarda come arriva da me Gigi, senti. Magari la zona un po' negativa, capito? sarà un po' negativa verso la tua zona. Vabbè. Ripeto, anche io sono una zona un po' così, ho davanti palazzi e palazzoni, però là, sicuramente c'è qualche vacco che mi fa uscire. No, no, credo si è ritirato. Ogni tanto entra a salutarci, ma lui sta nella frequenza sua. Chiappa, chiappa. Ah no, niente di che, poco, quasi niente, poi sto lavorando e mi alzo presto la mattina, la sera vado a Dudu presto, capito? Sì, magari capita qualche sera che dipende, dai, sul 23 c'è qualcuno di Sassari, niente, ma no, non è sempre che entro. Se io ogni tanto faccio una spazzolata nei canali ma non c'è mai nessuno. No, non lo so, non ho idea, che appunto sta assorbendo, minchia. Sta assorbendo un sacco. Non lo so quanta radio, quanti watt esce. Mi sta assorbendo più di 10 ampere. Beh, 747 da una cinquantina di watt. Sì, anche l'apparato è con i watt regolabili, sì. Penso proprio di sì. Sì. Sale. No, già stavo questo apparecchio, va. A me digitale non è che mi piaccia, comunque dai. Già fa il suo dovere. È un adattatore da 30 ampere con gli strumenti, è un adesso non mi ricordo cosa è, c'è una marca, è un po' cancellata, c'è scritto PK35SW. E switching, sì. C'è un trasformatore anche, della ZG 25 ampere, poi uno cinese costruito da me, costruito, modificato, dai, messo fatto con delle bananine, rosso nero, tassino accende spegni, queste cose così. Quello è un 50 ampere, ma sicuramente 50 ampere non li dà. Non lo so, a me non me ne ha altro problemi. Sì, ma infatti quello della ZG è pesantuccio, molto pesante. Non molto, di più. Io sinceramente parlando manco lo uso. Alla prossima, ciao G. A codire mi ha pompone, mi dici mi ha pompone come che Senta Daniele, da Itri. Prova Daniele, il 700. Cazzo, sei la vecchia, è tattica. Avevo detto, ascolta, Appunto, dovevi essere ereditario in teoria, ma non sei ereditario. No, è a Itri, Pompo, fidati, te lo garantisco io. Devo piazzare io l'antenna. Ho capito, ma ho capito chi è, hai capito. Però dovevo essere ereditario una volta. Adesso Itri, come ci fai a Itri, me lo spieghi? Nomade sono diventato, Antonio. Sei diventato? Nomade. Nomade. Ah, è vero che tu ormai c'hai il lavoro lì, quindi a un certo punto è la casa di... te l'hai affittata naturalmente, no? Non faccio più niente, no, Antonio. Non c'è più niente. Che è la casa tua? Era, resta giusto, era. Tutto venduto. Cesso, cazzo, ti hanno inculato, te lo. Popo, quanto arrivo io se lui arriva alle 9.30? Io sono anche agganciato. Fa un po' un passaggio, vabbè, noi siamo in femmina naturalmente, quindi vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sei 9.60, prova un po'... Cosa provo un po' come cosa? Cosa? Già avevi capito? L'ambulanza. Io l'ambulanza. Nino, guarda un po' a te. 30, 9.30. Però arriva molto bene, è vero, Pompo? Io lo sento benissimo in FM, ma veramente bene bene. Non sembra neanche a Itri. Vabbè, a Itri arrivano forte a me, lo sai. Quindi a un certo punto va benissimo. Itri è in alto, mi è di fronte a casa mia. Cosa vuoi pretendere? 9.30 va bene. Tu sei 9.60, sei al monte. Infatti, a Gigi lo sentivi. Lo sento, non ti preoccupare. A voi. Stavo no, arrivando, siamo a 20 km da qua. 15. Viso gelato. No, è mezzo al QRM, tanto è. Possiamo fare una prova in AM, Pompo? Vediamo un po' come lo siete, Daniele. E io, proviamo. Daniele, sei 9 e 20. Solleva un po' là. No, vabbè, sollevare nel senso l'antenna, no, infatti. Appunto, ho capito quello. Vabbè, comunque sta andando, dai, Daniele, l'antenna Puglia. Io all'inizio pensavo fosse un problema d'antenna, ma già sta andando. Vabbè, ma comunque l'antenna è esclusa, perciò è la posizione adesso, bisogna cambiare la posizione. Oggi è vero, perché prima la prima prova che hai fatto non arrivava molto bene, direi. Adesso si è migliorato, poi nel frame arrivi a bomba. Comunque, tu sei 9.10 e Luca è 9.20, già lo sai. Vabbè, già lo sai, quindi a un certo punto già ho capito. E già va bene, cosa vuoi di più? Se nella zona più su dell'ospedale, a quanto mi ricordo io, è la zona più alta che c'è, perlomeno per il baracchino, perché siamo andati un paio di volte con Luca lì all'ospedale di Itri e a quanto mi ricordo io è la zona più alta. Thank you. Va bene, non lo so adesso, la chiesa di San Pietro, non la conosco, però con Luca siamo andati assieme perché lui doveva fare una visita e quindi a un certo punto hai capito, visto dentro la piazza e dentro quella, dopodiché poi si va in alto e poi si piglia la strada, quella famosa. C'è quel ponte che ti porta da una parte all'altra. Se fossi stato all'ospedale, guai, cazzo. Lì è alto davvero. Come c'è? Si è andata a finire di... Boh. Ah, capito. Io mi assento, dai, se ci siete dopo, perché mi devo stendere anche la roba da lavoro, sennò domani non c'è roba da... non ci posso andare a lavorare. Lascia tutto acceso qua, ci sentiamo dopo, semmai. Capito, non c'è problema. Comunque da Icri arrivano forte qua, la verità, Icri è alto, non te lo guardare così, mi è più alto di Sassari, già lo sai, sì. Capito. Dunque, e va bene, va. Per il momento sta arrivando benissimo. Quindi, poi vabbè, ai tiri ci sono 5 cibi, se non mi ricordo male, la verità, 5 dovrebbe essere. Uno che è classificato come tecnico. E quello che è. Poi ci sono 4 ragazze che modulavano da lì, eccetera, eccetera. Dopodiché sono saliti, tutti sono saliti. Vabbè, ci sono anche le maturi, lo sai, e lì c'è lo sai che c'è il simbolo delle maturi, quindi a un certo punto fanno la fiera, tipo fiera, capito? Malissimo, quindi almeno lì c'è qualcosa che si muove, almeno lì ti lì, a Sassari non ho fatto mai nulla, non so perché, boh. Comunque sia, potevano farla anche a Sassari, una cosa del genere, tipo fiera, là, come fa, ahi ti fanno di tutto, fanno tipo fiera, le prove, eccetera, eccetera, quindi si sono ben organizzati, la verità, i rallevatori, quindi a un certo punto, ma Sassari sono dei morti, sono veramente morti. All right. cazzo di 10 sei qua? E anch'io sto usando, vabbè, io sto usando il 180, la verità, quindi penso che vada bene. Aspetta, sono quelli cibati però, Guarda attraverso. Hai visto? Comunque dove sei tu, stai tranquillo che stai bene. Sei in alto, ricevi tutto, quindi ha voglia, sì, già va bene, già va bene. Ali per Italia. Ah, Italy, ho capito. Quindi te l'ha buttato tutto quanto giù, te l'ho buttato e quindi a certo punto. E vabbè, cosa ci vuoi fare? A volte capitami, ho fatto così. Il tempo è quello che è adesso, non è, guarda che io ho preso fulmine in pieno mio, sai, quindi infatti mi ha bruciato tre televisori, la mantova me l'ha crepata, la bobina, quindi a un certo punto l'ho regalata eccetera eccetera, hai capito? A parte lo spavento che l'ho preso, ma comunque sia, ma è più una mantova turbo, una mantova 5, una mantova cosa. Adesso ho preso una di quelle antenne che costano poco, va bene, se la via in culo. E comunque per me la rimasta non serve a niente, la verità. Era meglio che ti pigliavi, che prendevi un'antenna, ma una Grazioli, ma la rimasta non serve a niente. E come quelle antenne che costruivano una volta, hai capito? Tipo canola pesca, eccetera, eccetera, no. Secondo me non vanno bene, non lo so, è un giudizio mio, la verità. È un'antenna tutta strana, capito? Secondo me non va bene, non lo so, comprati un'antenna come si deve che è meglio, la rimasta la staccala e se la piglia in culo, vedrai che guadagni parecchi guadagni. Daniele! Sempre io sono. Ciao Daniele, dopo tanto tempo. Ciao Antonio. Vai Daniele. Glielo credo, e come no? Certo che arrivi. Se sei con 8 e radio 5, ma non è molto forte la radio, arrivi, comunque non c'è problema. E io come arrivo lì? Santiago Zero? Daniele, ok. Via, alla faccia di Antonello, che dice che la Game Master non serve, e io questo l'ho molto in basso, ed è sempre la Game Master questa, eh. Avanti Antonello. Ho capito che c'è sempre con me, c'è dai cazzo. Esco sempre male il microfono, esco sempre male il cazzo di, con l'antenna, esco sempre male con quella che... qualsiasi cosa? Ma almeno tu con la gamba esci bene, vabbè, ci piacerà. Ah, io sono l'unico che esco male, l'unico critico, vabbè, la critica diceva quello, come si dice? Porta sempre questioni positive, il discorso è questo, non se l'ha presa mai nessuno. Va bene, non c'è problema, tanto per la gente che c'è, per questo non c'è nessuno. Se vuoi la mantova turbo, 100 euro e te la do io, nuova, nuova. Sì, così mi piglio il fulmine, vai, lascia perdere, mi paghi tu cazzo te televisori, non quello proprio, lascia perdere, non ne voglio più sapere io di mantova turbo, non regalatami la mantova turbo, non regalata, è nuova, ci voleva solamente la bobina all'interno, ed è nuova, tutto il resto non c'ha niente, sai come niente, non lo stile a posto, la vetrovesina a posto, il PL, vabbè, sì, quello è incollato, quello è cambiato, però ha chiamato l'antenna, che era regalata, un sacco di gente mi dice, hai fatto male, potevi regalarmela a me, l'avrei messa a posto, mi ha detto, un sacco di gente, quindi a un certo punto, a me non me ne frega niente, io mi sono spaventato veramente, gli ho detto, il discorso è questo, detto. A me ha detto, una cosa regalare, cosa regalare, il tipo che ho trovato ha detto, pigliati l'antenna, è nuova, la vetrovesina è nuova, eccetera, arrangiati, sistemati tutto, a me non me ne frega, non me ne fotte proprio niente, gli ho detto. A casa tua, io i tuoi 30 anni non ho mai visto una cosa del genere, in vita mia, scendemi, cioè, di arrivarmi caso, lì, in pratica il fulmine dentro casa, bruciarmi, 300 euro di roba, a che pare caso che penso caso a tenermi l'antenna, non se ne va a far culo, gli ho detto prima. Attento che stai andando male, mia, tu metti a posto bene tutto, che sei complesso, sei mancato quasi del tutto in radio, ti sentivo bassissimo per quasi tutto il passaggio, qualcosa c'è, metti a posto, non so se hai toccato il microfono, cosa è, boh. Va bene, riprendi Daniele. Adesso ce l'ho la modulazione, sì, ora, no, non ce l'ho, ora, aspetta un secondo, no? Aggiungo preso, aspetta un attimo. Già siamo qua noi, aspetta un attimo, già siamo qua, stavi andando bene inizialmente, e adesso ti sei è abbassato moltissimo, vabbè, il segnale è alto, però la radio è pessima. Ma boh, dai, vi saluto, io ci sentiamo, devo uscire. Ciao Daniele, fate sentire in questo periodo, almeno se non altro, vediamo di riuscire ad ascoltarci un po' di amici, perché ormai la 27 qui a Sassari è morta quasi del tutto. Ciao Daniele, ciao Antonello, ripente Daniele, ascolto finale, chiudo, vai. Ciao, Giulio, ci sentiamo, alla prossima, stiamo bene. Allora sto usando il microfono normale. Qual è il tuo microfono? Aspetta un secondo. Guarda po'. Non può essere, non è possibile. C'ho i macchini sulla C, quindi a un certo punto mi sembra un pochino strano a me. Quello che c'è di potenza. Alfa, 10 watt, guarda po'. Break. Vabbè, adesso con processore inserito in pratica va meglio o peggio? Ok, avanti Marco, ciao, buonasera. Ehi, ciao Antonè, volevo sapere se Daniele mi copiava adesso. A lui gli confermo il Santiago 8, ieri con l'antenna diretta al Santiago 8. Adesso sto usando l'aiutino, vediamo se riesco ad arrivare almeno. Va bene, poi ho sentito che avevi propagazione, anche oggi è lo stesso, ti arrivava propagazione tra 7 e l'8, quindi da liscio è un'impresa, con 4 watt è un'impresa, questi sono pochi, sono 50, tutto lì. Va bene, era per confermarti il segnale tuo, ieri ho controllato con due apparati anche, perché non ero sicuro, no, invece è 8, segnale 8. Va bene, riprendete pure, Antonio lo sta mettendo a posto, ho sentito anche Giulio, avanti Giulio. E chiudo, mi sembra che è chiuso, quindi figurati tu. Ho sentito un FM poco fa, in FM è ancora migliore la modulazione, confermo. È probabile anche che l'apparato anche abbia più watt in FM. Buono, buono, ottimo direi, dai. Eia, ma quello quanti ne dai in AM? C'è base, la versione base o la versione aumentata in AM, diciamo? Cioè ne da 40 in AM o di, molti di più? Io pure, sì, dovrebbero essere, sì, 50 tonde. Va bene, fatta la prova, Antonello, io la benedizione ve l'ho data, adesso ritorno a fare roba al computer, ho appena mangiato, prima non potevo nemmeno entrare, stavo pranzando. Un buon proseguimento di serata a tutti e ci sentiamo quando capita. Vai Antonello. Ora, ecco, adesso sto scendo bene. D'accordo che non c'è problema. Adesso sto scendo bene, sì. Un bijou, Antonè. Meglio così, sono contento. D'accordo, va bene, quindi tu stai andando a fare qualcosa sul computer Marco, e quindi vabbè, ci stiamo dopo la ripeterà, non c'è problema. Sì, devo fare stampare documentazione e poi fare prove di stampa, perché la stampante dopo anni e anni di utilizzo perfetto, perfettissimo, sta cominciando a perdere colpi e a stampare leggermente male, e quindi a seconda di come va a Natale la dovrò cambiare. Va bene, di nuovo buona serata a tutti, vai Daniele. Beh, adesso va bene, sì, mi senti meglio. Capito, se mi ricordo di quei due, sì, me li ricordo. Gliel'ha venduto, quindi a un certo punto gli ho venduto almeno una quindicina di quei Roger Bippi 48 della Intec. Io sto arrivando a 7. Adesso c'è da fuori. Ah, io ma cosa sono parlato a Gigi, figurati, da un metro. A me la mia arriva molto forte, sai dove? In PMR. Se lui c'è in PMR, io lo sento benissimo. Superare 7. È abbastanza attrezzata, te l'ho detto, il PMR è lato allucinante, basta puntarti un'antenna, se vuoi, voi ti prendi la direttiva con la parola che ho io, ah, se a caso te la prendi e te la piazzi. Vedi tu, state, non lo so, intanto io ho la verticale qui da un certo punto, io ho la direttiva, 8 dei 20, da quello che io da lì ho lavorato con la notte con l'Alghero, non sai con chi, con la prima crociera. Io sono in cerca di... vabbè, devo un pochettino, secondo me mi piglio un motore, stacco la verticale e attacco l'orizzontale. Io non parlo con la Francia, con la Corsica, con lo che, e poi con la zona di Alghero. Adesso è puntata a ripetitore di Monte Oro, quindi figurati tu, si è nascosto appena appena di 15-20 centimetri, parlo tranquillamente con la Spagna. C'è anche la propagazione, ma... quindi va bene, gli enti dove sei tu, sei tutto aperto, sì, quindi ha voglia. Tra quello che la Spagna c'è di fronte, perché è tutto quanto la Catalogna, le isole Canarie, quello che c'è, cioè, tutti di fronte c'è. Thank you. giorni. Io quando abitavo in Vizzetto, te lo sto dicendo, che parlavo ogni giorno, con lo scosso, con l'isola dei Canali. Ma sembrava una telefonata, come per dire, ci sentivamo immediatamente lei mi chiamava e io rispondevo, hai capito? È uguale, pare uguale, in diretta. Ci sentiamo, va bene, a domani, quando vuoi tu, non c'è problema. D'accordo, ciao, noi ci sentiamo, stammi bene. Ciao, ciao. Di limitazioni, di cose che se sgarri di poco ti fanno multe e ti devi prendere la casa per dei giocattoli poi, ma... Ti conviene portare la tua zia in campagna e farlo così almeno non è problema. Sì, vabbè, se vuoi spazi aperti, sì, e non solo lì, anche in paese, giù, dove abbiamo terreni nostri, eccetera. Va bene, comunque ho fatto tutta la prassi che bisogna fare, poi dopo due giorni accantonerò tutto, lo so già, io ho tutto fuoco di paglia, no? Tutto all'inizio, poi ti rompi le palle. Ma che prassi, Marco? Documentazione ci vuole? Sì, sì, sì. Allora ci vuole, se il drone è alla telecamera, cioè tutti, deve essere sotto, per non avere né patente né nulla, sotto i 250 grammi come peso, e serve solo un codice QR che ottieni da un sito chiamato D-Flight, paghi 6 euro una tantum per l'iscrizione, non l'iscrizione è gratuita, il codice QR è 6 euro e poi ti stampi il codice QR con la stampante, con la carta, quella tipo figurine appiccicose, come si dice, carta adesiva, ecco. E l'assicurazione che devi fare con Cover Drone o che ti pare sono 19 euro l'anno, 19,90, 18, dipende, io ho pagato 18,40 euro e dura un anno intero e puoi usare tutti i droni che vuoi. Però il codice, allora su ogni drone che hai devi necessariamente applicare questo codice operatore, codice QR. sai quei codici a barre quadrati con tutti quei quadratini piccoli, grandi, medi, è quello lì, è quello il requisito essenziale. Poi che dire, prezzi ce n'è per tutte le tasche, dai 12 euro ai forse 12.000 euro. Sì, sono così il codice QR, dai. Credo che ammetterò anche quando ti mandano le bollette della luce da pagare. Sì, vabbè, lì te lo devi stampare piccolo, tipo francobollo, mi. Purtroppo bisogna attaccarlo sul drone, se no è sussa. Comunque mi già, sono soltanto rotture di scatole. Vabbè, lì c'è una palla perché devi mandare cose, documenti, fotocopiare, cioè fotocopiare i documenti, poi riacquisire lo scanner, mandare cose, se sbagli una virgola devi rifare tutto da capo. Però vabbè, io in due giorni ho fatto tutto, non è che in due giorni, due seratine così. E poi che altro dire? Poi è carino perché cioè, tu puoi volare col telecomando e basta, oppure puoi attaccare al telecomando lo smartphone e praticamente in diretta vedi dove vai, cioè vedi quello che vede il drone, puoi registrare, fare foto eccetera, sempre rispettando la privacy altrui. Certo, se uno va a spiare nelle villette degli altri e poi lo mette su YouTube è un problema. Vabbè. Io mi ricordo che una volta ero con la strada che porta su al monte, ero fermo con la macchina, stavo modulando, ci è fermato questo tipo col drone, ha cominciato a farlo volare in alto, cioè, c'era duro in una villetta che c'era, l'ha preso la voce a parolacce, se non ti dà dai kiwi ti sono facendo la faccia, e ho detto basta venire, io non sto facendo niente di male, il drone è lontano dalla casa, io ci sono io qua, però il drone è dall'altra parte, che cosa vuoi? Sì, ci sono degli scoppiati che si attaccano a tutto, manco avessero la piantagione da nascondere in marijuana, magari molti ce l'hanno, è per quello che temono tanto, capito, la piccola piantagione personale nel giardino, e ne ho sentito di queste cose su YouTube, sui forum, eccetera, che arriva il pazzo di turno, che si mette a muso, che dice di denuncia che cosa, vabbè, comunque, è così, gente amata se ne è molto più di prima, molto più di una volta già, è una cosa folle, gente pronta a esplodere per ogni minima cosa, per ogni minimo sguardo, secondo me è il vaccino che ha fatto impazzire la gente. Il telefono era quadrato, che non ci sono abitazioni, il cielo, che lo fai volare lì, tranquillo, capito, che ne vanno un posto dove ci sono spazi senza esserci le case, perché cercano chi trovi, l'altro ti chiama i carabinieri e chiama chi vuole, te lo sto facendo con l'animale. Sì, ma anche in città con le dovute cautele, ma mi pare puoi sorvolare anche persone non informate, non coinvolte, così si dice. Poi c'è un'altezza di volo massima in base alle zone, per esempio zona di Alghero, anche a Platamona, hai visto che a Platamona ci sono gli aeromobili leggeri, gli ultraleggeri, no? Lì proprio Platamona, Stagno di Calico, come si chiama, è zona rossa, proprio non puoi, poi man mano che ti allontani c'è la zona arancione. Zona arancione quant'era? Massimo 25 metri di altezza, poi zona gialla massimo 45 metri, zona blu che non c'è però, c'è ad Alghero, quella alla Landriga, per esempio lì a Bancali, quello di da Bancali è zona blu, quindi massimo 60 metri di altitudine puoi fare di volo, che poi non so da terra come li misuri, ma ci sono dei droni che sul telecomando vedi la telemetria, lo sai, vedi l'altitudine, vedi la distanza da te. Mi è arrivato l'altro giorno e potevo ancora scartare, e chiuso ancora il pacco.